Come si trova Tione? Io? Sì. Bene. E cosa pensa dei giovani? Sono fortunati i suoi giovani. E... secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? Cosa pensano i giovani degli adulti? Mm-hmm. Spero bene, dai.